Prove aperte, volume secondo, la presentazione di questo libro di Marco Palladini, che abbiamo in collegamento telefonico al Teatro di Villa Torlonia, giovedì 30 alle ore 17, insieme ad Attilio Scarpellini e Valentina Valentini. Marco, ben ritrovato. Ben ritrovato Federico, un saluto a tutti gli spettatori e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto partiamo dal progetto 1, per chi non conoscesse, cos'è stato Prove Aperte? Dunque, Prove Aperte, volume 2, in realtà è il terzo libro di una mia, come dire, ideale trilogia, dove ho raccolto i miei scritti teatrali che partono dagli anni, da fine anni 70, primi anni 80 fino ad oggi. Quindi una cavalcata di memorie, una campionatura di ricordi su spettacoli e su grandi protagonisti del teatro italiano. Il primo libro uscì nel 2009, si intitolava Il teatro nati del caos, poi 2 anni fa c'è stato Prove aperte volume 1, che ha vinto tra l'altro l'anno scorso questo importante premio Feronia per la saggistica, e adesso all'inizio di quest'anno, a fine gennaio, è uscito volume aperte, Prove aperte volume secondo, dico non mai. Beh, credo appunto di aver fatto uno sforzo non comune, visto che in questo paese, bisogna purtroppo sottolinearlo, l'editoria teatrale è praticamente quasi inesistente, e aver trovato un editore come Fermenti Editrice, che mi ha permesso di pubblicare ben 3 libri, dove appunto attraverso appunto 4 decenni e mezzo di teatro, il teatro fatto, poi insomma il teatro è lo spettacolo dal vivo fondamentalmente, sì. È importante perché oggi viviamo un periodo di grande smemoria, non si sa neppure quello che è successo l'altro ieri pomeriggio, e il teatro si trasmette, il sapere teatrale si trasmette soprattutto attraverso, come dire, la memoria di testimoni diretti. Ecco, io sono umilmente, semplicemente, come dire, un cronista, un osservatore, un testimone diretto che racconta con uno stile, per appunto, diciamo, da autore, da scrittore, che sono anche un drammaturgo, un autore di libri di poesia e di narrativa, il teatro che ho visto, il migliore teatro che ho visto. Mm-hmm. Senti Marco, e io ho chiamato per l'appunto giovedì, sì, facciamo questa presentazione al Teatro di Villa Torlonia col coordinamento di Paolo Ruffini, e ci sarà tra l'altro a noi, oltre ad Attilio Scarpellini, critico teatrale saggista, e a Valentina Valentini, che è uno dei principali storici e critici di teatro italiani, lo voglio sottolineare, ci sarà Carlo Quartucci. Mm-hmm. Carlo Quartucci è da 60 anni, è un regista teatrale tra i più importanti in Italia. Lui è l'ultimo, l'ho voluto chiamare, l'ho pregato anzi di intervenire, perché è l'ultimo, diciamo, dei capostipiti dell'avanguardia teatrale italiana, assieme a Carmelo Bene, a Mario Ricci, a Leo De Bernardinis, che è ancora vivo. E quindi voglio dire, in un altro paese, che ne so, in America, figure come quelle di Carlo Quartucci entra in una categoria che è definita delle living legend, delle leggende viventi. In Italia purtroppo anche Carlo Quartucci è colpito da grave smemoria, pochi si ricordano tra i giovani teatranti, se nomino Carlo Quartucci pochi sanno chi è, anzi forse quasi nessuno sa più chi è. Mm-hmm. E questo veramente mi addolora profondamente, perché se non c'è trasmissione di memoria, che anche di sapere teatrale, insomma il teatro decade, il teatro si riduce veramente a ben poco. Mm-hmm. Senti Marco, c'è un sito internet, una pagina Facebook che dia dettagli su questo appuntamento? C'è una pagina Facebook che è stata creata da Fermenti Editrice, quindi se si va sul sito www.fermentieditrice.it poi si accede alla pagina Facebook. Sì. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento per quanto riguarda il tuo volume Prove Aperte. Al Teatro di Villa Torlonia si accede da via Spallanzani numero 1A, e l'appuntamento è per le ore 17. Giovedì 30. Benissimo. Giovedì 30 marzo. Marco, sì, un abbraccio e a presto. A presto, un abbraccio, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.